Chi è l'uomo malizioso? Non sono io, neppure tu. E senz'altro l'altro. Il dizionario definisce malizioso chi usa malizia nelle sue azioni, nei suoi giudizi. La malizia è l'intenzione di fare il male, di recare del danno, sia per mezzo di violenza, sia per mezzo di frode. Nessuno di noi ha mai voluto recare del danno o imbrogliare qualcuno. La malizia si trova nella maggior parte degli avvenimenti raccapriccianti. Non è forse malizia uccidere una giovane e bella ragazza per poi rinchiuderla dentro ad un sacco nero, con mani e piedi legati, il nastro adesivo stretto più volte, intorno al collo e sopra gli occhi? E come se ciò non bastasse, la donna era ancora viva, quando l'uomo ha incappucciato la giovane, mentre sulle braccia e sulle mani dell'uomo c'erano i segni di tentativi di difesa. Omicidio, si grida, ed è vero. Ma vi è omicidio e omicidio. In questo caso l'uomo ha mentito alla polizia dicendo che è stata una disgrazia. Ma questo non solo è omicidio, ma malizia. Bell'e buona perché l'uomo, pur sapendo di aver commesso un crimine, ora tenta di nasconderlo e dissimularlo. E malizia quando un parlamentare promette ciò che sa di non mantenere, È malizia quando degli spacciatori di droga la nascondono nei luoghi più impensati. Così è malizia. Quando dei sacerdoti religiosi sono colti in flagrante per aver sfogato il proprio istinto sessuale, inducendo le loro vittime a rapporti omosessuali o all'adulterio. Una di queste confessò che il sacerdote voleva compiere la funzione dello Spirito Santo. Come quest'ultimo coprì Maria, così il prete si arrogava il diritto di avere rapporti sessuali con la donna. Fanatismo religioso, ben inteso. Ma il tutto è coperto di malizia, cioè dell'intenzione di fare del male prendendo come scusa alcune verità. Forse abbiamo dato poca importanza alla malizia, se non addirittura vogliamo ignorarla. Soprattutto nei tribunali. Molta gente viene ritenuta inferma di mente quando, con una capacità non comune, riesce a nascondere le sue malefatte. Un vero infermo di mente non agisce con furbizia. Non è malizioso. O almeno ha una malizia infantile. Una mamma mi raccontava di aver trovato una scritta sul muro di casa e, avendone intuito l'autore, di essersi subito rivolta al figlio che frequentava la seconda elementare. Il bambino, non sapendo giustificarsi e avendo un fratellino, ancora analfabeta, di nome Franco, disse: "È stato Franco. Il bambino ha agito da malizioso". Ma la sua malizia non era ancora arricchita da quella conoscenza capace di ingannare il prossimo. Nessuna azione cattiva è giustificata, come nessuna offesa al prossimo può essere permessa. Ma la malizia è uno dei crimini più odiosi perché è usata per nascondere il male. La parola di Dio traccia un identikit dell'uomo malizioso, che non si discosta di molto dall'opinione generale. PR 24. 8. Chi pensa a fare il male sarà chiamato esperto in malizia. Anche per la scrittura, l'uomo malizioso è colui che pensa di fare il male. Dal momento che ogni azione malvagia è preceduta da un ragionamento ponderato, la parola di Dio va alla radice del problema. Per evitare di essere maliziosi o di comportarsi da maliziosi, è necessario non pensare il male. Del malizioso si può dire quanto è scritto dell'uomo malvagio. SL 7:14. Ecco, il malvagio è in doglie per produrre iniquità. Ha concepito malizie e partorisce menzogna. GB 15:35. Il malvagio concepisce malizia e partorisce rovina. Egli prepara l'inganno. Nessuno è in grado di avere dei pensieri malvagi e compiere cose giuste. È interessante notare la sequenza delle azioni dell'uomo malizioso. Prima concepisce una idea, in seguito tiene in gestazione i propri pensieri e poi alla fine genera o partorisce la menzogna. Queste serie di verbi dimostrano che la malizia non avviene all'improvviso come uno scatto di ira, ma essa viene coltivata e studiata nei minimi particolari, perciò più che gli atti dobbiamo guardare i nostri pensieri. Che la malizia sia odiosa lo dimostra anche il fatto che essa può presentarsi con una falsa veste. E per questo il credente farà la preghiera del salmista. SL 28, 3. Non trascinarmi via con gli empi e con i malfattori, i quali parlano di pace con il prossimo, ma hanno la malizia nel cuore. E ancora. SL 5, 9. Poiché nella loro bocca non c'è sincerità, il loro cuore è pieno di malizia, la loro gola è un sepolcro aperto, lusingano con la loro lingua. Queste preghiere dimostrano che un uomo può parlare di pace, può interessarsi alle cose di Dio, può addirittura adulare, incoraggiare, ma avere nel cuore della malizia. Il cristiano che serve Cristo ha avuto l'ordine di essere semplice come una colomba, ma altresì deve essere accorto come un serpente. E questo perché vi è tanta malizia, soprattutto nel campo religioso. Chi ha posto fede in Cristo non si lascerà abbagliare da qualsiasi discorso di pace, perché molti agiscono per puro interesse. Non si combatte la malizia con la malizia, ma con l'avvedutezza. Poiché ognuno raccoglie ciò che semina, anche la persona maliziosa ha la sua parte. La parola di Dio ne fa una descrizione abbastanza particolareggiata. PR 11:6. La giustizia degli uomini retti li libera, ma i perfidi restano presi nella loro malizia. SL 7:16. Ecco, l'uomo malizioso partorisce iniquità, egli ha concepito perversità e partorirà inganno. Egli scava una fossa e la fa profonda, ma egli stesso cade nella fossa che ha fatto. La sua perversità ritornerà sul suo stesso capo e la sua violenza gli cadrà sulla sommità del capo. PR 14:17. Chi è pronto all'ira commette follie, e l'uomo pieno di malizia diventa odioso. PR 12:2. L'uomo buono ottiene il favore dell'Eterno, ma l'Eterno condanna l'uomo pieno di malizia. SL 94:23. Egli farà ricadere su di essi la loro malvagità e li distruggerà per la loro malizia. L'Eterno, il nostro Dio, li distruggerà. Il quadro dell'uomo malizioso è veramente desolante. Di esso possiamo notare quattro verità. La prima è che l'uomo malizioso è vittima della sua stessa malizia. Infatti, prima o poi troverà qualcuno che agirà con malizia nei suoi confronti. La seconda verità è che l'uomo malizioso diventa odioso a tutti. Infatti si può comprendere chi si lascia andare con uno scatto d'ira, ma non chi medita del male. La terza verità in merito al malizioso è che è condannato da Dio. Forse a qualcuno potrebbe interessare poco, ma non essendo approvati da Dio, prima o poi, come si suol dire, si cade in disgrazia. La quarta verità in merito all'uomo malizioso è che ha un futuro catastrofico. Oggi il malizioso potrà cercare di giustificarsi, ma verrà il giorno nel quale non potrà giustificare la sua condotta odiosa. Se si pensa a Giuda, uno degli apostoli di Gesù, che tradì molto abilmente con malizia il suo maestro, notiamo però che alla fine si impiccò e ancor peggio di lui Gesù disse: «Era meglio che non fosse mai nato». Se Giuda avesse tradito Gesù in un momento di debolezza, se lo avesse rinnegato come Pietro per paura, se fosse fuggito per vigliaccheria come gli altri apostoli, tutto era recuperabile, ma un tradimento, un rinnegamento, una fuga, condita con malizia, non hanno scusanti. Come sempre, la parola di Dio parla dell'uomo malizioso per insegnarci qualcosa. Ecco due lezioni che dobbiamo imparare. A. Con la malizia non è possibile comprendere la parola di Dio. GM 1:21. Perciò, deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre. 1 Co 14:20. Fratelli, non siate bambini quanto a ragionare, siate pur bambini quanto a malizia, ma quanto a ragionare siate uomini compiuti. Quante persone si lamentano perché non comprendono la parola di Dio. Molte volte questo è dovuto al fatto che non hanno un cuore disposto a accettare ciò che è scritto. Alcuni dubitano che la Bibbia sia la parola di Dio, altri non vogliono abbandonare certe abitudini malsane. Occorre leggere la parola di Dio e accoglierla nel cuore senza malizia e senza alcun dubbio. La parola di Dio va letta non per un dovere religioso, ma prima per noi, poi per aiutare il prossimo. B. Dobbiamo togliere nel modo più assoluto la malizia. 1,5,8. Celebriamo dunque la festa, non con vecchio lievito, né con lievito di malizia e di malvagità, ma con gli azzini della sincerità e della verità. 1P2,16. Siate come uomini liberi che non si servono della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come servi di Dio. Chi ha posto fede in Cristo ha trovato anche la libertà nei confronti del peccato e delle persone. Il credente non deve sospettare il male. Deve togliere tutto ciò che può produrre malizia, deve essere aperto, sincero, leale. Il credente è cosciente di vivere come un agnello in mezzo ai lupi, è consapevole di vivere in una società piena di scaltrezza e di furbizia, ma questo non gli impedisce di essere sincero, genuino e schietto con tutti, lasciando a Dio il compito di proteggerlo. L'uomo che è gradito a Dio non agisce con malizia anche, perché sa che sono beati coloro che sono puri di cuore perché vedranno Dio. Ehi, mi sine ci solo questione di tempo, ehi, mi sine engiar di cuore. Gennaio 2007. Ellero che mi sine ci sotti e qua sonandui di qua preda lidero.